si nasconde il pericolo, scuole fatiscenti, ponti traballanti, aerei malandati, treni infestati. Sogno ronde tra le carte dell'ufficio, del capo ufficio, nei posti di lavoro, perché ogni vita è un grande tesoro. Tra gli ingranaggi delle macchine, della fabbrica mia, sogno ronde in ogni viale, in ogni vicolo, in ogni via. Sogno ronde in Parlamento, alla Camera e al Senato, nelle caserme, nei CPT e dentro la cella del carcerato. Sogno ronde dentro le case dei comuni cittadini, a controllare che i genitori non violentino i propri bambini, negli stadi e nei parchi tra spacciatori e prostitute, negli ospedali e segnalare chi non si cura della salute. Piccole ronde nella frutta, tra i suoi camici crittogamici. Sogno ronde microscopiche tra i mangimi dei polli industriali. Sogno ronde sopra il cielo, sogno ronde sui mari. Sogno ronde, un mondo di ronde a controllare i controllori. Saranno felici questi signori di avere ronde tra i loro cuori. Sogno ronde sotto il materasso e le coperte del mio letto, che mi proteggano la notte da questo sogno maledetto.